Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che il programma oggi terminerà alle 18, avremo infatti uno speciale, un altro speciale che la radio dedica a questa intensissima giornata, non più di crisi politica, ma ci si è arrivati vicinissimo, di fiducia al governo Letta, mettiamola così, per chi non avesse seguito tutti gli sviluppi, li racconteremo anche noi, ma dicevo alle 18 partirà uno speciale di Radio 24 fino alle 18.30 e poi gli aggiornamenti nel corso del resto del palinsesto. Partiamo dalle borse. Allora, già ieri Milano era stata la migliore ampiamente perché con l'ipotesi dei dissidenti del PDL, quindi che il governo Letta avrebbe avuto comunque una maggioranza al Senato, la borsa aveva molto guadagnato. Anche oggi, devo dire, alla luce di come si è conclusa quasi l'intera giornata, ma dalla Camera non dovrebbe arrivare nessun tipo di novità, dicevo anche oggi la borsa italiana è quella che guadagna di più, più 0,60% a fronte di Parigi che perde l'1,16%, Francoforte lo 0,90%, Londra meno 0,50%, l'America meno 0,70%, quindi c'è un effetto politica in questo caso in senso positivo, e c'è anche e soprattutto sulle banche, perché sappiamo che una crisi di governo avrebbe portato inesorabilmente a un aumento del nostro spread, e l'aumento dello spread vuol dire costi più alti per le banche. All'opposto invece si va a comprare titoli bancari. Intesa San Paolo guadagna il 4,50, Mediobanca il 6,50, il Banco Popolare il 2,90, poi seguono Unicredit più 2,20 come UbiBanca, Pop Milano più 2 come la Popolare Emilia Romagna, Fondiaria Assai più 1,80%, fronte opposto, Autogrill meno 3,70%, World Duty Free meno 2,50% come G-Tech, Luxottica meno 2,40%, Pirelli meno 2,12%, Snam meno 1,60% come Telecom Italia, Enel Green Power perde 1,30% come Tenaris e Diasorin, ma anche Fiat che risente, Fiat Auto, dei dati deludenti sulle matricolazioni di ieri, risultate in calo, nettamente più in calo rispetto alla media di mercato. Parleremo di cosa? Beh, è inutile girarci attorno, di quello che è successo, ma anche delle dichiarazioni di carattere economico che sono arrivate dal Premier Letta e anche di reazioni del mondo, delle parti sociali su questo. Tra l'altro ci occuperemo però anche della Banca Centrale Europea, nel senso che oggi c'è stata anche un'importante direttiva della Banca Centrale Europea, e come sempre delle borse. Vedo già molti messaggi, non riusciremo a coprire tutti i temi delle scadenze, da domani torneremo a ragionare sulle scadenze di questo governo e quindi il fatto che la legge di stabilità vada approvata entro metà ottobre, se non ricordo male, per cui questa è la prima scadenza, dove reperire queste risorse, perché una volta che l'IVA comunque è aumentata occorre trovare 2 miliardi e 4 per la seconda rata dell'IMU, altri 2 miliardi, 1 miliardo e mezzo circa per mantenere il deficit sotto controllo, più rifinanziamento delle missioni all'estero e della cassa integrazione straordinaria, siamo intorno ai 4 miliardi di euro che vanno reperiti da qua a dicembre. Parleremo però anche in apertura della Banca Centrale Europea, che oggi ha lasciato i tassi invariati e quindi per il quinto mese consecutivo i tassi dell'area euro restano allo 0,5%, e anche delle dichiarazioni che ha fatto Mario Draghi. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Partiamo subito, oggi notizie in breve ce ne sono pochissime, partiamo subito con l'intervento di oggi di Mario Draghi dopo il direttivo della Banca Centrale Europea. Based on our regular economic and monetary analysis, we decided to keep the key ECB interest rates unchanged. Sulla base delle nostre analisi economiche e monetarie, abbiamo deciso di lasciare i tassi di interesse invariati. Ci attendiamo che le pressioni sui prezzi restino sottotono nel medio termine. In linea con questo scenario, le dinamiche del credito restano sottotono. Le attese circa l'inflazione per l'area euro continuano ad essere ancorate e in linea con l'obiettivo di un'inflazione al di sotto, ma vicina al 2% nel medio termine. Allo stesso tempo, la crescita del PIL nel secondo trimestre è stata positiva dopo sei trimestri negativi e gli indicatori di fiducia fino a settembre confermano l'atteso graduale miglioramento dell'attività economica dai livelli molto bassi. Guardando più avanti, la nostra politica monetaria rimarrà accomodante per tutto il tempo necessario. Il Consiglio conferma che i tassi di interesse rimarranno ai livelli attuali, se non a livelli più bassi, per un periodo di tempo esteso. C'è stata una discussione sui tassi e, come la volta precedente, alcuni governatori pensavano che i miglioramenti dell'economia non giustificassero tale discussione. Altri, invece, la ritenevano necessaria. Alla fine, abbiamo deciso di mantenere i tassi invariati. Così Mario Draghi, appunto, avete sentito nell'ultimo passaggio, c'è stata una discussione perché da settembre ci sono segnali di un miglioramento dell'economia e quindi di un miglioramento della crescita, però abbiamo ritenuto, c'erano diverse opinioni, chi tenerli invariati, chi magari aumentarli, abbiamo discusso, ma abbiamo deciso che la misura migliore fosse non toccare i tassi di interesse. Draghi poi ha aggiunto che lo shutdown, quindi il non accordo in America sulla legge finanziaria che porta in automatico la chiusura degli uffici ministeriali, rappresenta un vero rischio per la ripresa globale. Poi ha detto attenzione anche ai rischi sui tassi di cambio, nel rapporto euro-dollaro soprattutto, e ha chiuso in qualche modo sull'Italia. Perché? Perché ha detto attenzione, i mercati dicono una cosa molto chiara all'Italia e a altri paesi in situazioni politiche instabili, e la parola chiara è occorre stabilità e riforme. Le maggiori pressioni dovrebbero venire dall'interno, dovrebbero fare le riforme per il loro bene. Questa è la Banca Centrale Europea. Come va lo spread? Mi chiedono molti di voi. Beh, sicuramente è tornato a un livello più basso, era arrivato a 273, siamo a 253 punti. Questo dopo la dichiarazione di voto di Silvio Berlusconi a favore della fiducia del governo Letta, e ci siamo riavvicinati anche alla Spagna. E vediamo di capire che cosa allora è successo, lo dico per chi si fosse appena messo in collegamento. Devo dire che nel nostro speciale di questa mattina, quello che è condotto da Simone Spezia alle 9:30, quando è iniziato a parlare il Premier Letta con gli interventi di Giovanni Minoli, di Mario Secchi e di Pierangelo Buttafuoco, devo dire che la definizione coniata in quello speciale, una partita di poker in cui le carte verranno scoperte solo all'ultimo, mi sembra la più azzeccata, perché dopo un tira e molla, tra l'altro la conferma che c'erano 30 ma almeno 23 senatori che avevano firmato un documento che avrebbero votato del PDL la fiducia al governo Letta, era arrivata poi la notizia che il PDL avrebbe votato la sfiducia al governo, e poi a sorpresa l'intervento di Silvio Berlusconi che ha detto no, noi voteremo la fiducia al governo, e quindi il Premier Letta e il suo governo ne escono anche più forti, se vogliamo guardare i numeri. Poi sappiamo che non è così, ma guardando i numeri 235 sì e 70 no al Senato. In tutto questo però ci sono poi anche altre notizie che vi darò, che riguardano per esempio la vicenda Alitalia, anzi diamola subito, perché su Alitalia il governo praticamente è sceso in campo per evitare il rischio fallimento. Ieri il Premier Letta aveva riunito tutti i vertici della compagnia, le banche, i fornitori, con un pressing particolare sulle banche, alle quali vengono chieste oltre 300 milioni di euro, questa è la liquidità indicata dal piano industriale. Dopo il no dei francesi all'aumento di capitale da 150 milioni, venerdì, il tempo stringe, infatti venerdì tornerà a riunirsi il consiglio di amministrazione in vista dell'assemblea dei soci del 14 ottobre prossimo. Avevano chiesto un intervento del governo su Alitalia i sindacati e anche buona parte della classe politica. Faccio notare che nei primi sei mesi dell'anno Alitalia ha accumulato una perdita di quasi 300 milioni di euro e ha in cassa liquidità solo per 128 milioni. Ancora, oggi è arrivata da parte di Air France una posizione abbastanza rigida, lo dice la stessa Air France, dice: noi siamo per aiutare l'Italia, ma con condizioni molto rigide, e se quelle che giudichiamo indispensabili non saranno ottenute non andremo più lontano. È sembrato molto un diktat. Sicuramente Air France ha posizioni molto più rigide e dure adesso del 2008. Lo ha affermato appunto lo stesso numero uno Alexandre de Juniac, ha detto: non darò dettagli su queste condizioni perché sono parte della trattativa. La situazione di Air France non ci permette di spendere altri euro senza contare dentro all'Italia. Siamo estremamente vigili, sono pronto ad aumentare la mia quota, ma in caso contrario, se non ottenessimo queste garanzie e le nostre condizioni, non potremmo farlo. Letta così, è più un diktat, è un ultimatum: o accettate le nostre condizioni, ci fate comandare dentro l'Italia, o se no non parteciperemo all'aumento di capitale e non metteremo un euro in più. Nel frattempo però il presidente del consiglio di gestione di banca Intesa San Paolo, Gianmaria Grospietro, ha detto che Intesa San Paolo è pronta a fare la propria parte per il rafforzamento patrimoniale di Alitalia. Air France ha specificato poi che il marchio Alitalia sarà comunque rispettato, diventerà uno dei tre grandi marchi del gruppo nel caso si concludesse la trattativa con Air France, come già per KLM. Nessun marchio sarà trattato peggio degli altri. Capiamo che Alitalia sia un simbolo nazionale in Italia, un marchio di valore verso il quale non abbiamo intenzione di avere pregiudizi qualunque cosa accada. Questo è il tema di Alitalia. Però dicevo, nel frattempo, dopo le dichiarazioni del presidente, visto che mi chiedevate di Alitalia, ve l'ho anticipata, dopo le dichiarazioni del leader del PDL Berlusconi, il governo tiene la fiducia al Senato e appunto con una maggioranza anche più forte. Poi le analisi politiche di domani immagino sì, così articoleranno tutte sul PDL, perché insomma da lì sono arrivate le novità più forti, appunto i 30 quasi, poi non si, il numero non si è capito, i firmatari erano 23, poi 30 quasi dissidenti, tutti di area che potremmo definire del nuovo Partito Popolare Europeo, molti vicini a Comunione e Liberazione. Però l'intervento del Premier Letta per quello che riguarda i temi di economia al Senato, nel discorso sulla fiducia, un passaggio su tutti: gli italiani non ne possono più di sangue e arena. Ci siamo confrontati su un orizzonte più alto, su un orizzonte più nobile, quello dell'interesse generale degli italiani. E gli italiani nella stragrande maggioranza ci dicono, mi verrebbe da dire, ci urlano che non ne possono più delle messe in scena da sangue e arena e del si scannano su tutto, ma poi non cambia niente. Cambia se vogliamo che cambi. Cambia se ci predisponiamo noi per primi al coraggio. Cambia se siamo solidi al punto da non temere che l'incontro con l'avversario sporchi o annacqui la nostra reputazione. Solo chi ha un'identità debole teme il confronto con le ragioni altrui. E poi altri passaggi, Letta che cita Einaudi, nella vita delle nazioni l'errore di non saper cogliere l'attimo può essere irreparabile, e ha anche detto il governo è nato in Parlamento, se muore lo fa qui in Parlamento. Poi il passaggio che riguarda più i temi di carattere politico, in uno Stato democratico le sentenze si applicano, occorre distinguere la vita del governo dalla vicenda privata di Silvio Berlusconi, non possono essere sovrapposti i due piani. Però poi Letta ha detto attenzione, la stabilità è un valore assoluto, ma serve un nuovo patto per un nuovo patto di governo, anche e soprattutto per rilanciare l'economia. Onorevoli senatori, il governo, questo governo in particolare, può continuare a vivere e a fare bene solo se è convincente nella definizione del programma e nella sua attuazione, in un vero e proprio nuovo patto, giorno dopo giorno, con la prospettiva sempre focalizzata sui problemi veri delle persone, delle famiglie, delle imprese, della nostra comunità. Tutto il resto, le minacce quotidiane, le polemiche tossiche agitate strumentalmente, ingenera caos, disagio, sbarrimento nei cittadini. Di certo nulla di buono e sano porta alla gestione della cosa pubblica, tanto più in una stagione di gravissima complessità quale quella che stiamo vivendo. Più e più volte in questi mesi mi avete ascoltato tessere in Italia e all'estero l'elogio della stabilità. Stabilità intesa come valore assoluto da perseguire e alimentare ora dopo ora. Stabilità messa così clamorosamente a repentaglio. Non è sempre stato così nella storia italiana. Nella primissima fase della Repubblica, dal 1946 al 1968, abbiamo avuto una stabilità politica impensabile oggi. In quegli anni, dal 1946 al 1968, tre presidenti del Consiglio hanno governato la maggior parte di quel tempo. I benefici della stabilità di allora li conoscono tutti gli italiani. E quindi un richiamo anche ai primi governi democristiani da parte del Premier Letta. Ma tornando sui temi legati all'economia, Letta dice attenzione, una crisi oggi significherebbe contrarre ancora gli orizzonti, ma soprattutto posticipare le misure a favore dei disoccupati, giovani e non giovani, e andare e finire ancora una volta sul banco degli imputati nell'Europa e nel mondo, come un'Italia incorreggibile che non impara mai dai propri errori. Questo è difficilmente contestabile, nel senso che una crisi di governo c'è già da ieri, l'abbiamo capito dalla dichiarazione di Angela Merkel, del segretario generale dell'OCSE, del presidente dell'Europarlamento, tutti a dire sarebbe inaccettabile, sarebbe la solita Italia se si aprisse una crisi di governo al buio. In realtà poi Letta ha detto attenzione, l'incubo recessione è alle nostre spalle e l'economia è avviata ad una graduale ripresa, però attenzione anche sulle persone a cui dobbiamo rispondere, perché prima che a chiunque altro dobbiamo rendere conto ai cittadini, ed è su di loro che le conseguenze della crisi potrebbero gravare. Che ce la possiamo fare, l'ho detto e ridetto all'infinito a tutti coloro che ho incontrato nelle ultime settimane. Vale per la riforma delle istituzioni, vale a maggior ragione per l'economia e la società. Dopo 8 trimestri di contrazione, l'economia italiana si è stabilizzata, è avviata verso una graduale ripresa. Abbiamo alle spalle un incubo, abbiamo alle spalle un periodo di recessione senza precedenti dalla Seconda Guerra Mondiale. Una recessione che segue il decennio perduto. Con la crisi l'Italia ha perso più di 8 punti percentuali di PIL. L'Italia ha perso oltre 1 milione di posti di lavoro. Un cataclisma nell'economia, nella società, che porta e ha portato preoccupazione, disagio, disperazione nelle famiglie italiane. È a loro, prima che a chiunque altro, che dobbiamo rendere conto delle nostre azioni. È su di loro che le conseguenze del voto di oggi potrebbero causare danni irreparabili. Le tasse, perché Letta ha parlato poi di tasse collegandole in qualche modo anche agli impegni con l'Unione Europea per il 2014. Allora, il Premier, a questo punto riconfermato, il Senato, vedo che alla Camera ci sono ancora i vari interventi, comunque ha detto rispetteremo gli impegni con l'Unione Europea per il 2014 e il governo prenderà le misure necessarie per ridurre l'indebitamento entro il 3%. Il nostro obiettivo, dichiarato da tempo, è un aumento del PIL pari all'1% per il 2014 e superiore negli anni successivi. La legge di stabilità è l'occasione per raggiungere questi obiettivi e dimostrare al Paese che il cambiamento è in atto. Questo non significa, naturalmente, che abbiamo intenzione di arretrare di un millimetro nel processo di risanamento della finanza pubblica, anche perché ogni allentamento delle politiche si riflette pesantemente sui costi di finanziamento del nostro debito. Il risanamento ci ha consentito, grazie ai sacrifici di tutti gli italiani, all'azione degli esecutivi precedenti e di questo governo, di uscire a fine giugno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo dell'Unione Europea. Ci ha permesso finalmente di non essere più sotto esame. Per questo vogliamo e possiamo confermare con la serietà che ci è richiesta e di cui certo disponiamo, che rispetteremo gli impegni con l'Europa per il 2014. L'indebitamento nominale deve restare e resterà entro la soglia del 3%. L'indebitamento strutturale deve tendere e tenderà rapidamente verso il pareggio. Il peso del debito deve ridursi e si ridurrà. Nell'immediato il Governo editerà le misure necessarie per ricondurre l'indebitamento del 2013 entro il 3%. La legge di stabilità estenderà il campo di azione degli interventi per la crescita, sposterà l'enfasi della politica di bilancio verso la riduzione della spesa e verso la riduzione delle tasse, in linea con quanto abbiamo fatto finora, confermando anche in materia fiscale e anche in materia di fisco per la casa la rotta degli impegni assunti. Proprio perché non vogliamo nuove tasse, intendiamo mettere il livello complessivo della spesa pubblica al centro dell'impostazione dell'azione di bilancio per il 2014. Questi 5 mesi di governo hanno già determinato un primo significativo sollievo fiscale per gli italiani. Anch'io ancora oggi fa polemiche sul tema del fisco, ricordo che grazie al nostro governo gli italiani hanno pagato in questi 5 mesi meno tasse rispetto al previsto per oltre 3 miliardi di euro. E anche questi sono fatti, non sono rinvii. E con la legge di stabilità e i provvedimenti collegati punteremo, come dicevo, a una riduzione del carico fiscale sul costo del lavoro, in entrambe le componenti, quella a carico del datore di lavoro e quella a carico del lavoratore. Dunque, lo scandisco bene, più soldi in busta paga per il dipendente, più margini di competitività per le imprese, riattivazione della domanda interna, più incentivi all'assunzione dei lavoratori a tempo indeterminato e poi sgravi fiscali per le start-up innovative, rafforzamento dell'ACE, l'aiuto per la crescita economica messo in campo dal governo Monti, così da incentivare la patrimonializzazione delle imprese e gli investimenti. Avvio di un importante programma di dismissioni immobiliari e privatizzazioni e razionalizzazione delle società controllate, statali e locali. Nessuna svendita. Quindi anche riferimento rivolto al leader del PDL Berlusconi, attenzione, in questi mesi siamo riusciti a far pagare meno tasse per 3 miliardi, allora vedo già molti che si imbufaliscono al 349-238-6666 e poi anche sulla pagina di Focus Economia su Facebook, il riferimento è in primo luogo alla prima rata dell'IMU e poi altre forme di agevolazioni fiscali. In realtà, dopo il meteo, e la pubblicità. Non vorrei fare sentire ancora un passaggio sempre di carattere economico per quello che riguarda da un lato l'austerità necessaria, però senza dover morire di austerità, e quello che Letta individua come il ruolo dell'Italia nell'Unione Europea. E poi sentire anche come va alla Camera in questo momento. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Commenteremo anche la borsa che ha appena chiuso, più 0,70%, unica borsa positiva oggi in Europa. Conferma che la tenuta del governo Letta, come già si era capito ieri in borsa, viene ben vista dagli investitori, che vanno a comprare soprattutto titoli bancari. Lo spread è tornato a 250 punti. Ancora un passaggio dell'intervento del Premier Letta questa mattina al Senato, in cui ha chiarito quale deve essere il ruolo dell'Italia. L'Italia l'anno prossimo avrà la presidenza del semestre europeo. Sia nel semestre europeo deve essere centrato su crescita e lavoro dopo anni di arretramento e sola austerità. E proprio sull'austerità Letta ha detto: attenzione, l'Europa non significa stare in Europa, non significa solo fare i compiti a casa. E di austerità si muore, di sola austerità si muore, ma anche di timidezza. È un diritto sognare gli Stati Uniti d'Europa, anche se non è un tempo solo per i sogni. Subito però scrolliamoci di dosso l'idea che stare in Europa voglia dire fare i compiti a casa. L'Europa non è un compitino, è un cammino dei popoli in cui l'Italia non deve mettersi da sola dietro la lavagna, ma agire da guida. Perché l'Italia può farlo. In questi mesi abbiamo dimostrato, onorevoli senatori, che nei cambiamenti dell'Europa l'Italia può essere protagonista. Abbiamo portato l'Europa con un'iniziativa italiana ad affrontare il grande dramma del nostro tempo, la disoccupazione giovanile. Possiamo e dobbiamo fare di più oggi, anzitutto su difesa, sicurezza e su politiche industriali, per raggiungere l'obiettivo di far arrivare il nostro manifatturiero al 20% del PIL entro il 2020. Abbiamo, onorevoli senatori, il diritto di sognare gli Stati Uniti d'Europa, per noi e soprattutto per i nostri figli. Ma non è più tempo solo di sogni. La buona battaglia per l'Europa, che segnerà l'Europa dei prossimi 15 anni, si gioca ora, nel 2014. Come si muore di austerità, si può morire di timidezza, di assenza di leadership. Allora, adesso ci colleghiamo però con i nostri due colleghi che stanno seguendo da questa mattina tutta l'evoluzione politica a Roma. E allora, prima di tutto vorrei collegarmi con Elisabetta Fiorito per quello che riguarda la situazione del PDL. Perché lo dico? Perché poi, terminato il voto e la fiducia Letta al Senato, Berlusconi ha detto: non ho fatto nessuna marcia indietro, però i vari siti, Le Monde, CNN, Financial Times, BBC, titolavano retromarcia di Berlusconi, era la breaking news su tutti i siti e su tutte le televisioni. Dall'Europa non è arrivato nessun commento specifico, se non che è importante che l'Italia abbia una stabilità. Allora, Elisabetta Fiorito, le ultime novità in casa PDL. Allora, intanto sì, quello che hai detto tu, perché è sembrato un po' uno psicodramma stamattina in Senato, perché prima Berlusconi aveva detto che votava no alla fiducia, poi ci ha ripensato e ha detto di sì, ecco perché i siti dicono retromarcia di Berlusconi. Attualmente poi 23 senatori e 26 deputati avevano già pensato di dare la fiducia al governo Letta. Bisogna capire se poi si formeranno i gruppi parlamentari estranei al PDL, perché per esempio Fabrizio Cicchitto qui alla Camera ha annunciato subito un nuovo gruppo, c'è Beatrice Lorenzin dei ministri, però poi Nunzia Di Girolamo ha subito detto io non ci sto, quindi bisogna capire questi gruppi se sono in corso di formazione, e poi Quagliariello pure ha detto io non ci sto al Senato, quanto effettivamente si formeranno dopo che lo stesso Berlusconi è venuto incontro alle richieste dei 23 senatori e dei 26 deputati proprio di votare sì alla fiducia. Capisci, Sebastiano, questa è la situazione molto confusa. Certo, è una situazione molto confusa, soprattutto sulla creazione o meno del gruppo, anche se appunto, come tu ricordavi, Formigoni l'ha confermato. Vincenzo Miglietta invece sta seguendo i vari interventi alla Camera. Vincenzo, a che punto siamo? Perché vedo scorrere sul televisore e in questo momento sta parlando Caridi del Popolo della Libertà. Prego. Sì Sebastiano, siamo alle battute finali della discussione generale, tra breve ci sarà la nuova controreplica del Presidente del Consiglio Letta, poi le dichiarazioni di voto finali dei vari gruppi parlamentari, interessante vedere che per il PDL o ex parleranno sia Cicchitto che Brunetta, ma poi vi sarà anche Epifani del Partito Democratico, quindi il voto di fiducia che qui alla Camera, ma come al Senato è con voto palese, prenderà circa un'ora e mezza per un voto finale che dovrebbe arrivare intorno alle 21. Allora grazie a Elisabetta Fiorito e Vincenzo Miglietta. Adesso vorrei far ascoltare però un passaggio del presidente di Confindustria Squinzi, perché oggi inaugurando una fiera importantissima per il mondo delle costruzioni che si è aperta a Milano, Mad Expo, ha detto bene, diciamo, la fiducia di Berlusconi al governo Letta è un'informazione positiva, però nello stesso tempo mi chiedo perché siamo arrivati a questo punto mettendo in fibrillazione i mercati, creando instabilità politica e confusione nella testa degli italiani. E ascoltiamo al microfono la nostra Raffaella Calandra. Il risultato è sicuramente positivo, però aspettiamo a valutare nei prossimi giorni cosa. Noi siamo a favore della stabilità politica, lo stiamo dicendo ormai da un po' di tempo, comunque non possiamo anche accettare supinamente che non vengano fatti i passi decisi che io ho chiesto nella direzione giusta, ecco, questo è evidente, insomma. D'altronde personalmente a chi ha la responsabilità di questo governo l'ho sottolineato in modo molto preciso. Un paese normale dove si possa programmare l'attività, dove si possano fare gli investimenti, dove gli italiani ritrovino la fiducia e ritornino a investire, perché per fare investimenti in questo paese abbiamo bisogno soprattutto primariamente di fiducia. Poi Squinzi ha ricordato quanto già annunciato ieri dal Centro Studi Confindustria: senza stabilità politica rischiamo di perdere un punto percentuale di PIL rispetto alle previsioni, che sono comunque in miglioramento. Poi l'appello che avete sentito: dateci un paese normale, appello che penso tutti possano condividere. Adesso ci sono informazioni sul traffico, poi la borsa che invece bene ha reagito, come già, ripeto, aveva fatto ieri, alla fiducia ottenuta dal governo Letta al Senato. Vogliamo un cambio, vogliamo un cambio, vogliamo un cambio, vogliamo un cambio, vogliamo. Volete un cambio epocale? Provate la nuova Subaru Outback 2000 diesel Lineartronic, la prima 4x4 boxer diesel al mondo con il cambio automatico CVT, per una fluidità di guida mai provata prima. Più che un cambio, è una rivoluzione. Subaru Outback 2000 diesel Lineartronic Model Year 2014. Scoprila questo weekend negli showroom Subaru. 24orecloud.it, lo store di applicazioni professionali del gruppo 24 Ore. Vi presenta Strade in diretta. Buonasera, alle 17:48 minuti sull'autosole ci sono code per un incidente avvenuto all'interno di un cantiere tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Sempre in A1 proseguendo verso sud si incontrano altre code per lavori tra Reggio Emilia e l'innesto per la 22 del Brennero. Ci sono 3 km di coda per un cantiere sulla 26 dei Trafori tra Ovada e Masone verso Genova Voltri, 4 km di coda per lavori sulla 22 del Brennero in direzione di Modena tra Vipiteno e Bressanone. Sul resto dei percorsi, traffico intenso attorno alle principali città, ci sono code e rallentamenti, in particolare in uscita da Roma, attorno a Milano, Bologna e Napoli. Ed è tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. Promo 24. I commercialisti si trovano oggi di fronte a nuovi problemi. Riduzione dei margini, difficoltà a riscuotere le parcelle, clienti sempre più esigenti. Per affrontarli è necessario cambiare il modo di lavorare. Con Business Pass, la soluzione cloud di Passepartout, si può semplificare l'organizzazione dello studio, migliorare la comunicazione con i clienti, fornire nuovi servizi collaborativi online, riducendo drasticamente i costi di gestione. Per entrare nel cloud di Business Pass, basta chiamare l'800 41 42 43 o visitare il sito www.passepartout.net. State ascoltando un programma offerto da QoA, MBA Part-Time International Program. Info su qoa.it. Focus Economia. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Per adesso commentare l'ultimo aspetto di questa giornata, e ripeto, alle 18 partirà poi il nostro speciale. Mi riferisco alla reazione di borsa. Devo dire, già ieri abbiamo visto la borsa crescere molto, e molto più delle altre borse europee, quando si è aperta l'ipotesi che il governo potesse avere la maggioranza con, chiamiamoli così, i transug o una parte di senatori in uscita dal PDL. Oggi confermato l'andamento, più 0,70% con borse europee invece che perdono lo 0,90% a Parigi, lo 0,70% a Francoforte e lo 0,35% a Londra, e in particolar modo con uno spread a 250 punti bene sopra tutti i bancari. Adesso li elencherò i bancari. Vorrei però, con Leonora Micheli di Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera Leonora. Buonasera. Concentrarmi in primo luogo su Finmeccanica, più 7,60%. Eh sì, in questo caso ovviamente anche l'effetto governo, la stabilità del governo dà nuove prospettive alla società. Peraltro proprio ieri si è tenuto un incontro tra il premier Enrico Letta, i vertici di Cassa Depositi e Prestiti e i vertici della stessa Finmeccanica, così che la borsa a questo punto ha iniziato a scommettere che presto sia risolto il dossier relativo a Ansaldo Energia, con la Cassa Depositi e Prestiti che a questo punto dovrebbe avere un ruolo fondamentale nella partita. Ancora tra i titoli, ripeto, poi arriviamo ai bancari. La spiegazione lì è molto semplice, si chiama spread in calo. Comunque, tra chi va male, Autogrill meno 3,80, World Duty Free meno 3,16, G-Tech meno 2,93, Luxottica meno 2,5, Pirelli meno 2,30, Snam meno 1,60%. Autogrill e World Duty Free. Sì, Autogrill e World Duty Free ieri erano andate abbastanza bene. Ieri era una giornata storica per il gruppo Autogrill, visto che è avvenuta la scissione, ovvero da una parte sono andate le attività che gestiscono i duty free, appunto World Duty Free, dall'altra quelle relative alla ristorazione. Oggi però il mercato sembra averci ripensato e punisce le azioni con cali consistenti, complice anche uno studio, se si può citare, di UBS, che ha un po' riacceso i riflettori, indicando che Autogrill probabilmente non ha, Autogrill ovvero la società che gestisce i ristoranti nelle autostrade, non ha grandi prospettive, anche se in verità proprio ieri i manager del gruppo hanno indicato che ci potrebbe essere la ripresa con il deterioramento del traffico autostradale che in Europa sta avvenendo un po' meno. Ancora tra i titoli c'è anche Telecom Italia. Domani c'è un consiglio di amministrazione molto importante che a questo punto potrebbe essere decisivo per la compagnia. Eh sì, dopo infatti, l'arrivo di dopo l'aumento della quota di spagnoli. Ovviamente le azioni sul PIL speculativo nei giorni scorsi avevano corso molto, oggi frenano perché domani c'è questo consiglio di amministrazione, come dici tu, importantissimo, perché verrà decisa la strategia dell'azienda. Franco Bernabè, stando alle indiscrezioni, potrebbe dare le dimissioni, visto che sarà bocciato, sempre secondo le indiscrezioni, il suo piano di rilancio della società attraverso un aumento di capitale. D'altra parte, da mettere in conto che senza appunto l'apporto di un aumento aumento di capitale e quindi una ripatrimonializzazione della società, subito le agenzie di rating potrebbero intervenire rivedendo al ribasso il giudizio, il che significherà per una società che, ricordiamo, ha circa 28 miliardi di debiti, pagare interessi ben più salati. Un'ultima nota su, adesso arrivo alle banche, su Mediobanca, perché lì il caso è un po' diverso, più 6%. Mediobanca oggi si è spinta ai massimi del 2013, peraltro insieme all'Istino che, festeggiando, come hai detto tu Letta, oggi ha aggiornato nuovi massimi 2013. Per quanto riguarda la banca, ieri è stato ufficializzato che i soci del patto, alcuni hanno rivisto al ribasso, alcuni usciranno dal patto. Morale, il patto che fino a ieri controllava il 42% dell'istituto di Piazzetta Cuccia scenderà a questo punto al 30%, l'istituto diventa più contendibile e questo piace sempre al mercato, e soprattutto si è ragionato anche sul fatto che i soci che hanno appunto disdettato il patto a partire da Unipol piuttosto che Generali non dovrebbero vendere subito le quote di Mediobanca, quindi appesantendo le azioni, certo. Ecco perché le azioni sono salite. Mentre beneficio dello spread si è avuto poi su Intesa San Paolo più 4,71%, Banco Popolare più 2,80%, Azimut più 2,80%, UbiBanca più 2,70%, UniCredit più 2,35%, Popolare Emilia Romagna più 2%, come la Popolare Milano, Fondiera 6 più 1,80%, Mediolanum più 1,37%. Grazie Eleonora Micheli, Radio Cor, Il Sole 24 Ore, Focus Economia oggi termina qui, domani ripartiamo dalle 17, il governo Letta ha ottenuto la fiducia, ma i problemi di questo paese e le sfide anche restano tutti sul tappeto, domani torneremo ad occuparcene. Radio 24, la passione si sente.